Capitolo 39. Legami e matrimoni. Anna provò un acuto senso di delusione per alcune settimane dopo il suo ritorno a Green Gables. Rimpiangeva la bella vita in comune a Patty's Place. Aveva sognato sogni di gloria durante l'inverno trascorso e ora giacevano tutti nella polvere. Nel disgusto di sé in cui era piombata, non avrebbe avuto la forza di continuare a sognare e si rese conto che se la solitudine vivificata dai sogni è dolce, la solitudine senza sogni è amara. Non aveva più visto Roy dopo la dolorosa separazione nel padiglione del parco, ma Dorothy venne a farle visita prima della sua partenza. «Mi dispiace da morire che tu non voglia sposare Roy», disse. «Volevo tanto averti per sorella». Ma credo che tu sia nel giusto, lui ti avrebbe annoiata a morte. Io gli voglio bene, lui è carinissimo, ma non è davvero interessante. Dall'aspetto diresti che lo è, ma non lo è affatto. Tutto ciò non rovinerà la nostra amicizia, non è vero, Dorothy? Domandò Anna speranzosa. Nemmeno per sogno. Sei troppo preziosa per lasciarti andare. Se non posso averti per sorella, voglio almeno averti per amica. E non affliggerti per Roy, adesso lui sta terribilmente male. Deve starlo a sentire ogni giorno le sue litanie, ma se la caverà egregiamente, se l'è sempre cavata. Come sarebbe a dire sempre? Si stupì Anna con un tono acuto nella voce. Se l'è cavata in faccende come questa prima d'ora? Povera me, sì, confermò Dorothy onestamente, due volte prima di questa. E sembrava tutte e due le volte sul punto di morire. Per la verità non è che le altre lo abbiano rifiutato, si sono limitate ad annunciargli il loro fidanzamento con qualcun altro. Certo, quando lui ti ha incontrata mi ha giurato che non si era mai innamorato prima di allora e che gli altri amori non erano che vagheggiamenti da ragazzetto, ma non penso che tu debba preoccuparti. Anna decise di seguire il consiglio. Provava sentimenti di sollievo e insieme di astio. Roy le aveva giurato e spergiurato che lei era il suo primo amore. E non c'erano dubbi che lo credesse davvero, ma era un conforto sapere che, con tutta probabilità, non gli aveva rovinato la vita. C'erano state altre dee, e Roy, secondo quanto Dorothy aveva affermato, aveva bisogno di trovarsi sempre in adorazione davanti a un qualche altare. Tuttavia la vita si era spogliata ai suoi occhi di altre illusioni ancora, e ora le appariva nella sua crudele nudità. La sera del ritorno uscì dal suo rifugio sotto il portico con una faccia addolorata. Che cosa è successo alla regina delle nevi, Marilla? Oh, lo sapevo che ti avrebbe fatto dispiacere, disse Marilla. L'ho fatto anche a me. Quell'albero si trovava qui fin da quando ero ragazza, è caduto giù durante la grande tempesta che abbiamo avuto in marzo. Era marcio dentro. Oh, mi mancherà tanto, si rattristò Anna. La stanza sul portico non sembra più la stessa senza di lui. Non potrò più affacciarmi alla finestra senza provare un senso di mancanza. E, oh, Marilla, non sono mai tornata a casa prima d'ora senza che ci fosse Diana a darmi il benvenuto. Diana ha altro a cui pensare adesso, replicò Marilla. Bene, dimmi tutte le novità di Avonlea adesso. La esortò Anna, sedendosi sui gradini del portico, dove il sole della sera le cadeva sui capelli, simile a una pioggerellina d'oro. «Ah, non c'è praticamente nulla di nuovo rispetto a quando ti ho scritto», disse la signora Linde. «Penso tu sappia che Simon Fletcher si è rotto una gamba la settimana scorsa. È una manna per la sua famiglia. C'erano una quantità di cose che loro volevano fare, ma non potevano perché c'era lui di torno, poveraccio». Lui viene da una famiglia insopportabile, fece notare Marilla. Insopportabile? E come? Sua madre ai raduni religiosi saltava su a dire tutto quel che stava per capitare ai suoi figli, mendicando preghiere. E il corso degli eventi ha fatto perdere loro il lume della ragione, più che mai. Ma non hai dato ad Anna le nuove di Jane? Insinuò Marilla. Oh, Jane, sbuffò la signora Lind. Bene, accondiscese a malincuore. Jane Andrews è tornata a casa dal West. È arrivata la settimana scorsa e sta per impalmare un milionario di Winnipeg. Si può stare sicuri che la signora Harmon non ha perso tempo a raccontarlo in lungo e in largo. Cara Jane, sono proprio contenta, si rallegrò Anna di cuore. Sì, merita tutto il bene possibile. Oh, io non ho niente da dire contro Jane, tutto sommato è una brava ragazza, ma Non appartiene certo alla categoria dei milionari e ti renderai conto che quell'uomo di raccomandabile possiede solo i suoi soldi. Che diamine? La signor Harmon dice che è un gentiluomo inglese che ha fatto soldi nelle miniere, ma metterei la mano sul fuoco che salterà fuori che è uno Yankee. Che abbia denaro è certo, perché ha riempito Jane di gioielli. Il suo anello di fidanzamento è un mucchio di diamanti così grosso che sembra un cerotto sulla mano grassoccia di Jane. La signora Linde non poté evitare un tono amaro. Ecco lì Jane Andrews, quell'occhetta insignificante, fidanzata a un milionario, mentre Anna, almeno così sembrava, non era ancora stata richiesta da nessuno, ricco o povero che fosse. E la signora Andrews si vantava in maniera insopportabile. Che cosa è successo a Gilbert Blythe all'università? Si stupì Marilla. L'ho incontrato quando è tornato a casa ed era così pallido e magro che non l'ho riconosciuto. Ha studiato moltissimo l'inverno scorso, disse Anna. Sai che si è laureato a pieni voti e ha anche vinto il premio Cooper in lettere classiche. Non veniva assegnato da 5 anni, così penso che adesso sia abbastanza giù. Siamo tutti stanchi. In ogni caso, tu sei una laureata e Jane Andrews non è niente del tutto, decretò la signora Linde con cupa soddisfazione. Poche sere più tardi Anna scese a trovare Jane, ma quest'ultima era a Charlottetown a farsi cucire qualcosa, la informò con fierezza la signora Andrews. È ovvio che, date le circostanze, una sarta di Avonlea non è abbastanza per Jane. Mi hanno detto delle belle cose su Jane, esordì Anna. E come? Sta venendo fuori mica male, anche se non è laureata, disse la signora, scrollando lievemente il capo. Il signor Inglis ha un bel po' di milioni, andranno in Europa in viaggio di nozze. Al ritorno andranno a vivere in un autentico palazzo tutto in marmo a Winnipeg. Jane ha un solo problema, lei cucina molto bene e suo marito non la lascia cucinare, è così ricco che ha chi gli fa da mangiare. Assumeranno un cuoco, due cameriere, un cocchiere, un tuttofare. Ma che mi dici di te, Anna? Non ho sentito parlare di matrimonio a tuo proposito per tutto il tempo che sei stata all'università. Oh, sì, rise Anna, mi sto avviando a diventare una vecchia zitella. Non ho ancora trovato l'uomo giusto per me. Era stato un po' cattivo da parte sua. Anna intendeva deliberatamente far capire alla signora Andrews che restava zitella non perché i pretendenti le fossero mancati e che aveva anzi avuto più di un'occasione, ma la signora si prese una pronta rivincita. Così succede in genere alle ragazze ricercate che rimangono con un palmo di naso, eh? E che mi dici di quel che ho sentito del fidanzamento di Gilbert Blythe con una certa signorina Stewart? Charlie Sloane mi ha detto che è un'autentica bellezza, è vero? Non so dirle se sono fidanzati, replicò Anna con spartana imperturbabilità, ma è certamente vero che lei è bellissima. E pensare che un tempo credevo che tu e Gilbert vi sareste messi insieme, sospirò la signora Andrews. Se non fai attenzione, Anna, tutti i tuoi spasimanti ti scivoleranno via tra le dita. Anna decise di porre fine al suo duello con la signora. Non si poteva continuare a combattere con una persona che rispondeva a una stoccata con un colpo d'ascia. Dal momento che Jane è fuori, disse alzandosi con grande dignità, non è il caso che io rimanga qui. Ripasserò quando Jane arriverà a casa. Fallo, fallo! La incitò espansiva la signora Andrews. Jane non ha affatto messo su delle arie. Vuol vedere i suoi vecchi amici proprio come sempre. Sarà felice di vederti. Il milionario arrivò alla fine di maggio e sollevò Jane in una nuvola di gloria. La signora Linde si rincuorò con compiaciuta crudeltà nel constatare che il mitico signor Inglis aveva almeno 40 anni ed era basso, ossuto e di colorito grigiastro. La signora Linde non risparmiò nulla nell'enumerazione dei suoi difetti, su questo non c'erano dubbi. Oh, avrà bisogno di tutto il suo denaro per indorare la pillola, che diamine! Proclamò solennemente. A me sembra gentile, di buon cuore, disse lealmente Anna, e sono sicura che vuol molto bene a Jane. Esclamò la signora Rachel. Phil Gordon si sposò la settimana seguente e Anna si recò a Bolingbrook per farle da damigella. Phil era una sposa stupenda e il reverendo Joe era talmente radioso di felicità che nessuno lo giudicò insignificante. Andremo a farci un viaggetto da innamorati nella terra di Evangeline, disse Phil. E poi ci sistemeremo in Patterson Street. Mia madre pensa che sia orribile e ritiene che Joe avrebbe almeno dovuto scegliere una chiesa in un posto più decente. Ma i bassi fondi di Patterson Street diventeranno un giardino fiorito di rose se Joe è con me. Oh, Anna, sono talmente felice che mi fa male il cuore. Anna era sempre felice della felicità dei suoi amici, ma di tanto in tanto avvertiva una punta di solitudine nell'essere circondata da ogni parte da una Letizia che non le apparteneva. Fu la stessa cosa al suo ritorno ad Avonlea. Questa volta era Diana a camminare su una nuvola, per quel particolare tipo di beatitudine che una donna prova nel vedere accanto a sé il primo figlio. Anna guardava la giovane madre con una sorta di timore reverenziale, un sentimento che non aveva mai provato prima di allora nei confronti dell'amica. Era possibile che quella donna pallida, dagli occhi rapiti, fosse la piccola rosea Diana dai riccioli neri dei lontani giorni di scuola? Aveva la strana impressione che solo la vecchia Diana le appartenesse e che la nuova non avesse nulla a che fare con lei. «Non è di una bellezza perfetta?» domandò Diana orgogliosa. «Quell'esserino grasso era identico a Fred, altrettanto rotondo e altrettanto rossiccio». Anna in coscienza non poteva dire di trovarlo bello, ma fu in grado di dichiarare con tutta sincerità che era dolce, tenero e in un certo qual senso delizioso. Quando lo aspettavo avrei voluto che fosse femmina per chiamarla Anna, disse Diana, ma adesso che il mio piccolo Fred è qui non lo cambierei con un milione di bambine. Non avrebbe potuto essere nient'altro se non questo gioiellino stupendo. La signora Allan giunse in visita ad Avonlea per la prima volta da quando se n'era andata. Era allegra e dolce e comprensiva, come sempre. Le sue vecchie amiche l'accolsero felici. La moglie dell'attuale pastore era una donna rispettabile, ma non si poteva dire di lei che fosse proprio uno spirito affine. Non so come riuscirò ad aspettare che diventi abbastanza grande per parlare, sospirò Diana. Sono ansiosa di sentirlo dire mamma. E voglio assolutamente che il suo primo ricordo di me sia bello. Il primo ricordo che ho io di mia madre è di una volta che mi ha strapazzato per qualcosa che avevo fatto. Sono sicura che me l'ero meritato e che la mia era un'ottima madre. E io le voglio un bene dell'anima, ma voglio che il primo ricordo che lui avrà di me sia migliore. Io ho un solo ricordo di mia madre ed è il più bello dei ricordi possibili, intervenne la signora Allan. Avevo 5 anni e un giorno mi mandarono a scuola con le mie 2 sorelle maggiori. Finite le lezioni, le mie sorelle tornarono a casa separatamente e ciascuna pensò che io fossi con l'altra. Invece io me ne ero andata insieme a una ragazzina con cui mi ero messa a giocare in un angolo. Poi andammo a casa sua, vicino alla scuola, a fare torte di fango. Stavamo divertendoci un mondo quando arrivarono le mie sorelle furiose e senza fiato per la paura. Cattiva! Mi rimproverarono portandomi via riluttante e trascinandomi dietro. Vieni subito a casa e vedrai che cosa ti succederà. La mamma è fuori di sé, ti darà una bella strigliata. Ma io non ebbi mai quella strigliata. Ero piena di terrore, non mi ero mai sentita tanto infelice in vita mia come durante il tragitto di ritorno a casa. Non avevo avuto alcuna intenzione di essere cattiva. Phoebe Cameron mi aveva chiesto di andare a casa con lei ed io non sapevo che fosse sbagliato e ora stavo per essere strigliata per questo. Come entrammo, mia sorella mi spinse verso mia madre che era seduta accanto al fuoco nella penombra del crepuscolo. Le gambe mi tremavano talmente che riuscivo a malapena a tenermi in piedi e mia madre, oh, mia madre mi prese soltanto tra le braccia, senza una parola di rimprovero o un gesto di stizza e mi baciò, tenendomi stretta al cuore. Oh, avevo così paura che ti fossi perduta, piccina mia, mi disse con tenerezza. Potevo vedere l'amore nei suoi occhi mentre mi guardava. Non mi sgridò né rimproverò mai per quello che avevo fatto. Mi disse soltanto di non andarmene via di nuovo senza permesso. Morì poco tempo dopo. È il solo ricordo che ho di lei. Non è bello? Anna si sentì più sola che mai tornando verso casa. Attraverso il sentiero delle betulle e il laghetto dei Salici. Era da molto tempo che non passava più da quei luoghi. Era una notte di velluto, di un viola profondo. L'aria era greve del profumo dei fiori, forse troppo greve. Ne rifuggì stordita, come da una coppa stracolma. Le betulle che costeggiavano il sentiero erano cresciute. Da giovani arbusti di un tempo a grandi alberi, tutto era mutato. Anna comprese che si sarebbe sentita nuovamente felice solo alla fine dell'estate, quando sarebbe andata altrove a lavorare. Forse allora la vita le sarebbe sembrata meno vuota. Il mondo che ho trovato non ha più i romantici colori del tempo che fu, sospirò Anna, confortata dal romanticismo insito nell'idea di un mondo senza romanticismo. Capitolo 40. Gli Irving tornarono a Echo Lodge per la stagione estiva e Anna trascorse da loro 3 settimane meravigliose. La signorina Lavendar non era cambiata. Carlotta IV si era fatta una signorina, ma adorava ancora Anna con tutto il cuore. Per parlar chiaro, signorina Shirley, Madame non ho mai incontrato nessuno a Boston che fosse uguale a lei, le confessò con franchezza. Anche Paul era molto cresciuto, aveva 16 anni e delle corte ciocche brune avevano preso il posto dei suoi riccioli castani. Era assai più interessato alle partite di football che alle fiabe, ma il legame che lo univa alla maestra di un tempo era ancora saldo. Gli spiriti affini non mutano con il mutare degli anni. Era una sera buia e tempestosa di luglio quando Anna rientrò a Green Gables. Si stava addensando sul mare una di quelle violente bufere estive che talvolta flagellano le acque del porto. Quando Anna entrò, le prime gocce battevano contro i vetri. «È Paul che ti ha riaccompagnata a casa?» domandò Marilla. «Perché non gli hai detto di restare? Credo che sarà una notte terribile. È tornato a Echo Lodge prima che si mettesse a piovere. Comunque, non aveva intenzione di fermarsi. Bene. È stato un bellissimo soggiorno, ma sono felice di rivedervi. Casa, dolce casa, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Devi, ma sei cresciuto ancora ultimamente? Più di 1 centimetro da quando sei andata via, si inorgoglì Devi. Adesso sono alto quanto Miles T. Boulter, ci ho proprio gusto. Lui dovrà smettere di cantare vittoria sul diventar più alti. Di Anna, sai che Gilbert Blythe sta morendo? Anna rimase immobile e senza parole a guardare Davy. Era diventata così pallida che Marilla temette di vederla svenire. Davy, tieni a freno la lingua! Lo ammonì rabbiosa la signora Linde. Anna, non fare così, non fare così, ti prego, Anna, non volevamo dirtelo in questo modo, di colpo. È vero? Balbettò Anna con una voce che non le apparteneva. Gilbert è molto malato, assentì gravemente la signora Rachel. È stato colpito dalla febbre tifoide appena sei partita per Echo Lodge, non l'hai saputo? No, rispose quella voce sconosciuta. È stato grave fin dall'inizio, il dottore ha detto che se l'è presa in pieno. L'hanno affidato a un'infermiera professionista e hanno fatto tutto il possibile. Oh, non fare così, Anna, finché c'è vita c'è speranza. No. No, il signor Harrison è venuto oggi pomeriggio e ha detto che per lui non c'è speranza. Marilla, con un viso tirato e stanco, si alzò in piedi e spinse Davy per le spalle fuori dalla stanza. Oh, non fare così, bambina, disse la signora Rachel, cingendo con le vecchie braccia la pallida Anna. Io non ho perso la speranza, non l'ho persa mai. Lui ha dalla sua parte la tempra forte dei Blight, che diamine. Anna si sciolse piano dall'abbraccio. Camminò alla cieca attraverso la cucina e il vestibolo e salì le scale verso la sua vecchia camera. Si inginocchiò accanto alla finestra, guardando fuori, senza vedere. La notte era di un buio profondo, la pioggia batteva sulla terra, scossa da brividi. Il bosco stregato era percorso da gemiti degli alberi flagellati dalla tempesta e l'aria risuonava del boato delle onde che si frangevano sulla spiaggia lontana. E Gilbert, Gilbert stava morendo. Ma in ogni vita c'è un libro dell'Apocalisse, come sta scritto nella Bibbia, e Anna lesse il suo in quella notte di tempesta, in una veglia di agonia durante le ore di buio e di paura. Lei amava Gilbert, l'aveva sempre amato, solo adesso se ne rendeva conto. Capì che non avrebbe potuto respingerlo dalla propria vita senza morirne, come si fosse trattato della sua mano destra, ma la rivelazione l'era giunta troppo tardi anche per l'amaro conforto di essergli accanto fino all'ultimo. Come aveva potuto essere così cieca e così sciocca? Ah, se non lo fosse stata, adesso avrebbe avuto il diritto di stargli vicina. Ma lui non avrebbe mai saputo che lei lo amava e se ne sarebbe andato da questa vita ignorando la profondità del suo amore. Oh, gli occhi scuri del vuoto che si spalancavano di fronte a lei. No, non avrebbe più potuto fissarli, né vivere. Si rincantucciò davanti alla finestra e per la prima volta nella sua giovane vita si augurò di morire. Se Gilbert se ne andava lontano da lei, senza una parola, né un segno, né un messaggio, non avrebbe più potuto vivere. Lei gli apparteneva e lui apparteneva a lei. In quell'ora suprema di dolore non aveva dubbi, lui non aveva mai amato Christine Stewart, non avrebbe mai potuto amarla. Oh, ma come aveva fatto a non capire l'intensità del sentimento che la legava a Gilbert? Come aveva potuto scambiare la vuota infatuazione per Roy, per autentico amore, e ora pagava la sua follia come un crimine. La signora Linda e Marilla salirono fino alla sua porta prima di andare a letto. Scossero il capo, guardandosi dubbiose per il silenzio che regnava all'interno, e se ne andarono. La tempesta infuriò tutta la notte, ma quando sorse l'alba tutto ebbe fine. Anna vide una splendente striscia di luce fendere il buio. A oriente le colline si frangiarono presto di un bordo di rubino. Le nuvole furono sospinte lontano e si ammucchiarono in bianche e soffici masse all'orizzonte e il cielo brillò in un tripudio di azzurro e di argento. Sul mondo si stese il silenzio. Anna si alzò in piedi e scese da basso. Come uscì in giardino, la freschezza del vento le carezzò il viso e recò sollievo ai suoi occhi secchi e brucianti. Un fischiettare allegro e musicale le giunse dalla strada. Un attimo dopo comparve alla sua vista Pacific Boat. Improvvisamente le forze le vennero meno. Se non si fosse afferrata a un ramo di salice sarebbe svenuta. Pacific era il garzone di George Fletcher e George Fletcher viveva porta a porta con i Blythe. La signora Fletcher era la zia di Gilbert. Pacific doveva sapere se Pacific doveva sapere quel che lei voleva sapere e se Pacific si avvicinava a grandi falcate lungo il sentiero. Non aveva visto Anna. Lei fece tre tentativi a vuoto per chiamarlo. L'aveva quasi superata quando le labbra di Anna trovarono la forza di formularne il nome. Pacific! Pacific si voltò verso di lei con un largo sorriso e un allegro buongiorno! Pacific! Esordì debolmente Anna. Vieni da George Fletcher? Certo! Rispose Pacific amabile. Dovevo andare da lui ieri sera per dirgli che mio padre era malato, ma il tempo era così brutto che non ho potuto e ci sono stato stamattina presto. Adesso taglio dai boschi per fare più svelto. Hai sentito come sta Gilbert Blythe stamattina? La disperazione di Anna aveva bisogno di una risposta. Tutto era meglio di quella terribile incertezza. Sta meglio, annunciò Pacific. Ha fatto il giro di boa stanotte. Il dottore ha detto che se la caverà presto. L'ha scampata bella, quel ragazzo. Ha proprio rischiato la pelle, quello, all'università. Bene, devo fare in fretta. Il mio vecchio non starà più in sé per la voglia di vedermi. Pacific recuperò il passo e il fischio. Anna lo seguì. Con occhi da cui la gioia stava fugando l'angoscia della notte. Quel ragazzo era davvero scialbo, lacero e bruttino, ma i suoi occhi era bello come un angelo. Mai, per tutta la vita, Anna guardò più il viso scuro e rotondo, incupito dagli occhi neri di Pacific, senza provare il ricordo di quell'ondata di gioia che l'aveva sommersa quando lui aveva mutato il suo pianto in straripante felicità. Il gaio fischiettio di Pacific si mutò in una musica indistinta e il silenzio scese sotto gli aceri del sentiero degli innamorati. E ancora, a lungo, Anna indugiò sotto i salici, gustando la struggente dolcezza che la vita concede quando una grande tragedia si allontana. Il mattino era una coppa colma di fascino, incoronata da una nebbiolina leggera. Accanto a lei c'era la fulgida sorpresa di rose appena sbocciate, umettate di rugiada cristallina. I trilli e i gorgheggi che inframmezzavano il canto degli uccelli sul grande albero che la sovrastava erano in accordo perfetto con il suo umore. Le ritornò alle labbra una frase di un tanto antico, tanto vero, tanto meraviglioso libro. Il pianto può durare una notte, ma la gioia giunge al mattino. Capitolo 41. Sono venuto per invitarti a fare una di quelle passeggiate di un tempo, tra i boschi di settembre e sulle colline ove crescono le spezie oggi pomeriggio, annunciò Gilbert, apparendo all'improvviso sotto il portico, e penso che visiteremo anche il giardino di Esther Gray. Anna, che sedeva su un gradino di pietra con il grembo colmo di qualcosa di verde pallido e trasparente, alzò gli occhi, trassognata. Oh, come vorrei venire, sospirò. Ma davvero non posso. Oggi devo andare al matrimonio di Alice Penhallow, lo sai. Devo ancora lavorare a questo abito e quando avrò finito dovrò correre a prepararmi. Mi spiace tanto. Avrei proprio voluto venire. E allora, che ne dici di domani pomeriggio? Domandò Gilbert, all'apparenza non eccessivamente dispiaciuto. Sì. In questo caso me ne tornerò a casa e farò quello che avrei dovuto fare domani. Dunque, oggi si sposa Alice Penhallow? Tre matrimoni per Anna in una sola estate. Quello di Phil, quello di Alice e quello di Jane. Non perdonerò mai a Jane di non avermi invitato. Non la devi proprio biasimare. Pensa che ha dovuto invitare tutto l'interminabile parentado degli Andrews. La casa poteva contenerli a malapena. Io sono stata inclusa nella lista solo perché sono la più vecchia amica di Jane. Questo almeno per quanto riguarda lei, perché ho l'impressione che la signora Andrews mi abbia invitato soltanto per farmi constatare con i miei occhi quanto Jane mi superasse in magnificenza. È vero che indossava un tal numero di diamanti che non si capiva dove finissero i diamanti e dove cominciasse Jane? Eh beh, quel che è certo è che ne aveva un mucchio. Con tutti quei diamanti, sommati alla seta, al tulle, al merletto, alle rose, ai fiori d'arancio, la piccola compassata Jane quasi scompariva alla vista. Ma era molto felice, lo era anche il signor Inglis, per non parlare della signora Andrews. È questo l'abito che indosserai stasera? Domandò Gilbert, lanciando un'occhiata alla nuvola vaporosa che Anna aveva in grembo. Sì, non è carino? E punterò degli astri tra i capelli. Il bosco stregato ne è stracolmo quest'estate. Gilbert ebbe l'improvvisa visione di Anna avvolta nello splendido abito verde, con le braccia e il collo che ne uscivano nel loro virginale candore e gli astri bianchi nella massa d'oro ramato dei capelli. Quella visione gli tolse il fiato. Si accomiatò tuttavia da lei come se nulla fosse. Bene, verrò domani. Ti auguro di divertirti stasera. Anna lo guardò allontanarsi e sospirò. Gilbert era amichevole. Molto amichevole, disperatamente troppo amichevole. Era ritornato spesso a Green Gables dopo la guarigione e qualcosa della vecchia amicizia aveva ripreso vita. Ma ad Anna non bastava più. La rosa dell'amore aveva reso il fiore dell'amicizia pallido e privo di profumo, tanto stridente era il contrasto. E Anna, beh, aveva cominciato a temere che Gilbert non provasse per lei altro che una sincera amicizia. Alla luce del giorno la folgorante certezza di quel radioso mattino si era appannata e lei si logorava al pensiero di non riuscire a rimediare mai più all'antico errore. Forse, dopo tutto, era davvero Christine la donna amata da Gilbert. Forse erano ancora fidanzati. Cercava con tutte le sue forze di far tacere le speranze del cuore, provandosi ad accettare un futuro dove lavoro e ambizione prendessero il posto dell'amore. Avrebbe insegnato con onore, se non con gloria. Il successo dei suoi raccontini, inoltre, l'aveva ormai inserita nella comunità privilegiata degli scrittori e lasciava ben sperare per il futuro. Eppure, eppure. Anna sollevò l'abito verde e trasse un sospiro. Quando Gilbert giunse il pomeriggio seguente, trovò Anna ad aspettarlo fresca come l'alba e radiosa come una stella. Dopo tutta la baldoria della sera precedente, indossava un abito verde. Non quello che aveva messo al matrimonio, ma un altro che Gilbert, nei primi tempi di Redmond, le aveva detto di gradire più di tutti gli altri. Era di una particolare tonalità di verde che metteva in risalto il colore dei capelli, il grigio cangiante degli occhi e la delicatezza della pelle chiara. Sbirciandola di nascosto mentre gli camminava accanto per l'ombroso sentiero del bosco, Gilbert pensò che non era mai stata così bella e Anna, sbirciando di nascosto Gilbert, mentre le camminava accanto per l'ombroso sentiero del bosco, pensò, con una stretta al cuore, che la malattia gli aveva segnato il volto. Era come se si fosse lasciato la fanciullezza alle spalle per sempre. La giornata era bella, e bella era la strada che si percorrevano. Anna provò quasi dispiacere quando raggiunsero il giardino di Esther Gray e sedettero sulla vecchia panca, ma quel luogo era troppo bello, bello come il giorno lontano del picnic dorato, quando Diana, Jane, Priscilla e lei l'avevano scoperto. Allora traboccava di narcisi e di viole. Adesso l'oro dei rododendri accendeva vampate rosse screziate dall'azzurro degli astri. Giungeva fino a loro dalla valle il canto del ruscello, portatore dell'antico incanto. L'aria recava il suono e il profumo del mare. I campi erano intessuti di felci che il sole di tante estati aveva reso d'argento e le colline lontane erano avvolte dall'ombra color perla delle nubi d'autunno. Sulle ali del vento dell'est gli antichi sogni erano tornati. Penso, mormorò Anna, che la terra dove i sogni divengono realtà sia tra quella nebbia azzurra laggiù, oltre la piccola valle. Hai dei sogni che non si sono ancora realizzati, Anna? Domandò Gilbert. Qualcosa nel tono della sua voce, qualcosa che non aveva più sentito da quel lontano pomeriggio nel frutteto di Patty's Place, le fece battere forte il cuore, ma si sforzò di rispondere con calma. Certo, tutti li abbiamo. Non sarebbe nemmeno auspicabile che i sogni si realizzassero tutti. Saremmo morti dentro se non avessimo nulla da sognare. Che meraviglioso profumo far nascere dagli alberi e dalle felci il sole che tramonta. Mi piacerebbe vedere i profumi, oltre che sentirli. Sono sicura che sono bellissimi. Ma Gilbert non cambiò discorso. Io ho un sogno, sussurrò. Continuo a sognarlo, anche se ho pensato spesso che era impossibile tradurlo in realtà. Io sogno una casa con il camino, un gatto, un cane, una quantità di amici e te. Anna avrebbe voluto parlare, ma non trovò le parole. La felicità la travolse come un'onda, con una pienezza che quasi la spaventò. 2 anni fa ti ho fatto una domanda, Anna. Se te la ripropongo ora, la risposta sarà diversa. Di nuovo Anna non riuscì a trovare le parole, ma alzò su di lui gli occhi, splendenti del rapimento d'amore che innumerevoli generazioni avevano provato prima di lei. Per un attimo gli catturò lo sguardo e lui non ebbe bisogno di altre parole. Indugiarono nell'antico giardino finché non li avvolse il crepuscolo, dolce e ombroso come i crepuscoli dell'Eden. C'era così tanto da dire, cose dette, fatte, udite, pensate, sentite e non comprese. Credevo che tu amassi Christine Stewart, gli disse Anna con aria di rimprovero, come se lei non avesse fatto lo stesso con Roy Gardner. Gilbert rise, una risata da ragazzo. Christine era fidanzata a qualcuno nella sua città natale. Io lo sapevo e lei sapeva che io lo sapevo. Suo fratello mi disse che sarebbe venuta a Redford a studiare musica, pregandomi di badarle perché si sentisse meno sola, visto che non conosceva nessuno, e io l'ho fatto. Poi Christine ha cominciato a piacermi. È una delle ragazze più simpatiche che ho conosciuto. Sapevo che all'università ci davano tutti per fidanzati, ma non me ne importava nulla. Nulla più mi importava dal giorno in cui tu mi dicesti che non avresti mai potuto amarmi. Non c'è stata nessun'altra, Anna. Nessun'altra, perché non avrebbe mai potuto esserci nessun'altra. Ti ho amata fin dal giorno in cui mi hai rotto la lavagna in testa. Non capisco come hai fatto a innamorarti di me dal momento che ero così sciocca, disse Anna. E veramente ho cercato di non farlo, confessò Gilbert, non perché pensassi che eri sciocca, ma perché ero certo di aver perso ogni probabilità dopo l'entrata in scena di Roy Gardner. Ma non ci sono riuscito e non ti sto a dire che cosa sono stati per me questi 2 anni. Credevo che fossi sempre sul punto di sposarlo e ogni momento incontravo qualche ben intenzionato che mi riferiva alla data imminente dell'annuncio ufficiale. Ah, l'ho creduto, fino a un bel giorno quando ero appena guarito dal tifo. Ricevetti una lettera da Phil Gordon, Phil Blake, pardon, in cui mi diceva che non c'era mai stato niente fra te e Roy e mi incitava a non mollare. Bene, quel giorno il dottore, constatato il miglioramento, non voleva credere ai suoi occhi. Anna rise, poi Ebbe un brivido. Non potrò mai dimenticare la notte in cui ho creduto che tu stessi per morire, Gilbert. Oh, io sapevo, allora sapevo, ma pensavo che fosse troppo tardi. Non lo era, amor mio. Oh, Anna, ciò dà vita al mondo intero. Non dimentichiamo questo giorno, Anna, questo giorno sacro per il dono che abbiamo ricevuto. È il compleanno della nostra felicità, disse con dolcezza Anna. Io ho sempre amato il vecchio giardino di Hester Gray e ora mi sarà più caro che mai. Ma devo chiederti di attendere a lungo, Anna, si rattristò Gilbert. Occorreranno 3 anni prima che abbia ultimato la mia specializzazione in medicina. E anche allora non ci saranno saloni di marmo né scintilli di diamanti. Anna rise. Io non voglio saloni di marmo né scintilli di diamanti. Voglio solo te. Esattamente come Phil, queste cose mi lasciano indifferente. Scintilli di diamanti, e saloni di marmo, non danno nemmeno la più piccola spinta al trampolino per la fantasia. E per quanto riguarda l'attesa, non c'è problema. Saremo felici aspettando e lavorando l'uno per l'altra e continuando a sognare. Oh, i sogni saranno davvero dolci ora. Gilbert la strinse più vicina a sé e la baciò. Poi tornarono a casa, nella penombra, insieme, re e regina del reame dell'amore, lungo sentieri ventosi, bordati dai fiori più luminosi che mai fossero sbocciati, su prati incantati, sui quali si stendevano le ali del ricordo e della speranza. Fine.